Marco Milanesio di Disordine. Isa e Toalle in quel di Milano. E poi Mariano Virdi a Berlino, Francesco Cornello, Tabula Rasa in quel di Cortina d'Ampezzo, Alessandra qui a Roma. Karl Marx di Blocco 24, ottimo progetto di Dark Wave dell'entroterra romano di Palestrina. Allora, abbiamo messo a posto le ultime cose e andiamo a cominciare con una vecchia conoscenza qui di Disorder che da un po' non sentivamo. Trattasi di Novi Svet, artista austriaco per nome Jürgen Weber, un artista che si è sempre mosso un po' a cavallo di neofolk in senso molto molto ampio. Arrangiamenti sempre molto particolari e decisamente deviati per questo artista austriaco, che ha una grossa passione per l'italiano e infatti ogni tanto si diletta nel cantare in maniera un po' improbabile le nostre canzoni. E nella sua numerosa discografia siamo andati a pescare un vecchio lavoro del 1999 dal nome Faccia a Faccia. Non a caso un italiano, sua grossa passione è anche lo spagnolo e lo si può anche evincere dalla prima traccia che si chiama La Razón e la terza Dios Fabos. Espresivo. A чём? Скажет, да ни о чём. И не соврёт. Он время торопит. Он домой хочет. Он невольник и не понимает всей полноты своей несвободы. Solamente un Dios que nos junta. lara so ho tu estas lara so ho tu estas lara so ho tu estas lara so ho tu estas lara so ho tu estas lara so ho tu estas lara so ho tu estas lara so ho tu estas lara so ho. Pues dinero en tu mano, ritmos jazz y mexicano, tu sals y tus soldados, solamente dios falsos, el oro del nuevo mundo no vale nada. El oro del nuevo mundo no vale nada aquí, no vale nada aquí. La bizzarra Michelle armonica ideata da Novi Svet, da Jürgen Weber. Il punto di partenza è stato anni, tanti anni fa, il neofolk. Poi sentite gli sviluppi quanto sono particolarissimi, al limite del jazz più stravolto e con una dose di ironia non indifferente, l'uso dello spagnolo e dell'italiano. Novi Svet, faccia a faccia. Intanto saluto Simone Scalise di Audio Chaos, la Dark Wave calabrese, Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster al pari di Flavio Derbecante, Ise Tual da Milano. Sentite accenni di veramente di folk malatissimo. Novi Svet dunque che lasciamo e che andremo ad ascoltare la prossima settimana, qualcosa di più rigoroso appartenente a una colonna della musica italiana tra industrial e elettronica, sonorità più oscure. Sto parlando di Marco Milanesio, conosciuto come Disordine. In questa circostanza con l'ottima collaborazione di Femina Faber, di Paola Bianchi alla voce. E con Paola Bianchi ha fatto questo Nix Sub Sole, consideriamolo un mini album di circa 35 minuti, un po' tra dark wave e sviluppi diciamo elettronici molto particolari, una produzione dello stesso Disordine e dal quale ci andiamo ad ascoltare Astrum Crudele e Sepulcrum. Vorrei sottolineare le particolarissime capacità vocali della bella voce di Paola Bianchi. La contemplazione Elettrogoth, ideata da Marco Milanesio, che va a comporre tutte le musiche di questo progetto, e la voce di Femina Faber nella persona di Paola Bianchi. Le andiamo a salutare entrambi e andiamo a salutare soprattutto questa ottima collaborazione tra i dischi più interessanti di questo 2021. L'esperienza di Marco Milanesio al servizio delle ottime qualità vocali di Paola Bianchi. E questo dunque era l'autoprodotto Nix Sub Sole, dal quale abbiamo estratto Astrum Crudele e Sepulcrum. Chiaramente lo andremo a conoscere meglio anche le prossime settimane. Un album registrato a Torino all'OFF Studio, che credo sia proprio dello studio di Marco Milanesio. Allora, si va avanti, lasciamo questa collaborazione preziosa di Marco Milanesio e Paola Bianchi per andarci ad ascoltare un'altra altrettanta preziosa collaborazione con Massimo Magrini di Bass Sector e Riccardo Bianchi. E loro hanno formato, anzi hanno riesumato questo loro vecchio progetto degli anni 90 dal nome Derma, spostato più sul versante elettro e minimal synth. L'ultimo album si chiama Signore e Signori Buonanotte. E quindi ci andremo ad ascoltare questi tre effervescenti episodi dal nome Una sera diversa, Automa e Buonanotte.